anche se fa caldo, io qualche momento ve lo devo rubare, d'altra parte io sono bardato peggio di voi e quindi potete anche voi sopportare un po'. Io vi terrei qui a lungo, ma Papa Francesco dice non superino 10 minuti le prediche. Eccola, casomai, siccome pochi giorni che resterò qui ancora con voi, se qualcuno di voi vuole approfondire un po' di Vangelo o di qualcosa che dirò, io dopo cena non vedo la televisione, se prendiamo un po' di fresco posso. Allora, abbiamo sentito che qui si parla di vocazioni. La prima vocazione di Eliseo, è un grandissimo profeta, e anche Elia, suo maestro. Per quello sarebbe bello approfondire la Bibbia, amici. Altrimenti conosciamo tutto dei gossip, perché quando sei in sdraio, in spiaggia, cosa si fa? Si leggono o si parla di proprio non proprio delle questioni fondamentali del mondo, ecco. E poi dopo della vita cristiana conosciamo così poco, purtroppo, e della Bibbia quasi niente. E poi abbiamo sentito in questo Vangelo, che è il capitolo 9 di Luca, abbiamo sentito diverse persone che o si offrono come discepoli di Gesù o Gesù li chiama direttamente perché lo seguono. È la vocazione. Vocazione, dicevo all'inizio della messa, vuol dire chiamata. Vi invitavo a riflettere se ciascuno di voi ha ricevuto una vocazione o no. Può sembrare una suora, un prete, sì, ma io dico tutti abbiamo ricevuto una vocazione. Se sei mamma, hai ricevuto una vocazione. Sempre le mamme, io non sono sposata, non ho nessuna vocazione, mi dicono di solito le persone non sposate. Bisognerebbe cercare la vocazione che ti ha dato Dio. Io ve ne parlerò di una vocazione che abbiamo tutti, ed è la vocazione per cui siamo stati creati. Se io facessi la domanda, forse queste più giovani non mi sanno rispondere, quelle un po' più datati come me saprebbero forse rispondere. Perché siamo stati creati? Vi ricordate la risposta che si dava al catechismo un po' di anni fa? Per conoscere, amare, servire Dio in questa vita e goderlo nell'altra in paradiso. Non spaventatevi, ma io in poche parole vorrei farle passare tutte. Siamo stati creati per conoscere Dio. Conoscere Dio, vi porto un caso. Io ieri sera sono andato a celebrare messa alle 18 in una delle parrocchie di Carrara perché ho conosciuto un sacerdote che ha la sua mamma a Milano, dove io vivo, e anche lui sta studiando da esorcista, come peraltro io lo sono da 7 anni. E allora mi ha detto: vieni nella mia parrocchia a celebrare, dici qualche cosa così. È un sacerdote di origine albanese, ha quasi 50 anni, venne qui in Italia circa 25-27 anni fa, non conosceva niente di Gesù Cristo, perché l'Albania era l'unico paese al mondo dichiaratamente ateo e così, no? Cioè, come hai fatto? Gli ho chiesto. Guarda, a me è piaciuto, io non conoscevo proprio niente, mi dice, però mi piaceva vedere la gente che si trovava in chiesa, pregavano e cantavano. Sono stato attirato da questo, pensa. Ha cominciato a frequentare, è stato incuriosito dalla persona di Gesù, ha studiato il Vangelo, è andato a catechismo, si è fatto battezzare, ma è stato così preso a conoscere Dio, amare Dio. È stato così preso che ha deciso di diventare sacerdote. È entrato in seminario qui a Carrara, ha fatto i suoi anni di seminario, è stato ordinato sacerdote, il vescovo gli ha dato 2 parrocchie qui nella città di Carrara. Conoscere e amare Gesù. E io ripensavo a certe nostre povere famiglie, dove ci sono delle nonne che diventano matte, perché mio figlio, che è sempre andato in chiesa, ha trovato quella donna lì che non ci va, non ha battezzato neanche i 2 figli che ha avuto. Posso battezzarli io di nascosto? Dico, nonna, sei matta? Se tu dai un battesimo, il battesimo vale, però poi queste creature avranno un battesimo senza poterlo coltivare. No, no, guai a te, guai a te. C'è gente nella nostra cristianissima Italia che non solo non conosce Dio, ma addirittura lo mette da parte, lo ignora o lo disprezza. Forse avrete anche sentito, noi parroci lo sappiamo bene, che ogni tanto ci arrivano delle domande di sbattezzo. Avete mai sentito di che si tratta? Eh sì. C'è in internet, c'è tutto, c'è anche questa domanda, no? In cui uno dice, poiché sono stato battezzato senza il mio consenso, una piccolina, chiedo a norma della privacy, così così, di essere cancellato. E noi non possiamo cancellare, però dobbiamo adattarci a queste richieste e a mettere accanto una richiesta, il signor Tal dei Tali chiede di non essere più considerato membro della Chiesa Cattolica Romana, così, no? Conoscere e amare, perché? Perché questo tizio, questo giovane albanese è affascinato dalla persona di Gesù. Tanti nostri italiani Gesù non lo conoscono, amici, non lo conoscono, forse anche in casa nostra, no? E servire Dio mi viene in mente un altro caso di una donna albanese come questo sacerdote, si chiamava Madre Teresa di Calcutta, la quale è diventata suora in un istituto normale, faceva scuola alle ragazze della buona società indiana, finché un giorno Dio la colpisce nel cuore e lei comprende, dice, come faccio a stare in collegio a servire queste ragazze che non gli manca niente, che in giro per le strade di Calcutta c'è gente che vive nella fogna quasi, scusate, ma è così, no? E allora riceve da Dio questa chiamata di mettersi a servire. Ma è una vera vocazione, perché se pensiamo noi di essere capaci di fare questo, noi non siamo capaci affatto. E infatti è famoso un episodio di un giornalista della BBC, la televisione inglese, che va a intervistarla, entra dentro in una camerata di queste e vede sta donnina vestita da suora secondo lo stile indiano, che lì tutta intenta a sfasciare un piede che va in cancrena. A me non è mai capitato, ma dicono che quando per la lebbra la carne va in cancrena, puzza da cadavere. E quindi quest'uomo che è arrivato per intervistare questa donna, come la vede, si tira indietro e dice, madre, ma lei fa questo lavoro? Dice, sì. E lui dice, ma io non lo farei neanche per 1 milione di sterline. E lei, senza alzare la testa e continuando, dice, per 1 milione di sterline non lo farei nemmeno io. Capito, amici? Guardate che il mondo è pieno, nonostante tutto, è pieno di gente che conosce, ama e serve Dio in questa vita. E poi manca l'ultimo pezzettino per goderlo nell'altro, in paradiso. Su questo proprio i preti non predicano mai la morte, perché hanno paura di perdere il consenso della gente. Parlare della morte è antipatico, eppure, amici, è il nostro destino finale. E se tu hai amato Dio, se tu l'hai servito, mi ricordo, ero giovane prete, 24 anni, a Milano, entro in sacrestia e trovo lì una signora, una milanesona di quelle, dirò una battuta in dialetto milanese, ma pazienza, insomma, poi casomai lo traduco dopo, e mi dice, cara lì, se diventa vecchio e che se paura di morì. È un dialetto facilissimo, no? Si diventa vecchi e si ha paura di morire. E dico, sciura Teresa, io non ho paura di morire. Ma cosa dice così giovane? Dico, perché vede, io a 20 anni ho lasciato l'università, ho lasciato una ragazza, ho lasciato i miei 4 fratelli, ho lasciato la ditta di mio padre perché Gesù mi ha affascinato, ho desiderato diventare sacerdote. Beh, guardi, non mi dispiacerebbe alla fine andare a vedere che faccia c'ha. E lei mi dice, ben, se la mette così, c'ho più niente da dire. È così, amici, è così. che il Signore ci possa affascinare per morire andando a vederlo. Concludo con un episodio che mi diceva una mia parrocchiana, ricordo ancora il nome, Franca si chiamava, e dicevo: "Don, c'era mio papà che ormai era agli ultimi, era lì in questo letto, vedere sto uomo che è stato mio padre per tutta la vita, mi ha guidato, era lì in questa lenzuola, perso. Allora a un certo punto mi è venuto il pensiero, dice lei, sul comò avevamo un crocifisso che aveva un basamento, no? I crocifissi si possono appendere, ma si possono mettere anche sul tavolo. Allora ho preso il crocifisso e ho detto: "Papà, papà, guarda Gesù." E allora gli ho dato questo crocifisso, mio padre l'ha preso, l'ha baciato così, no? Proprio ci sono rimasta colpita. Ti colpisce la fede della donna, ma quando vedi un maschio, quando vedi tuo papà, che si sta avvicinando alla morte, no? E che ha questo amore a Gesù. Ho finito, carissimi, sono stato dentro negli 11 minuti, perché io le mie prediche le registro e poi dopo chi le vuole gliele mando con WhatsApp. Qualche volta l'ho mandata anche alla suora, no? E ne mando 300 in giro in tutta Italia tutti i giorni, no? Ora, amici, io vi auguro, veramente, vi auguro di incontrare Gesù, come ha fatto quel sacerdote, quel giovane albanese, come anch'io a 20 anni ho fatto, come credo, a me piacerebbe sentire la storia di tanta gente, perché le esperienze sono sempre bellissime. Io vi auguro veramente di incontrare Gesù, vi auguro di conoscerlo, guardarlo in faccia. C'è una strada, sapete qual è? E ho finito. La strada è la Madonna. Quando io guardo un quadro della Madonna che ha in braccio Gesù, le dico: "Madonna, chiedo a te di amare Gesù come l'hai amato tu." Credo che nessuno più di una madre è capace di amare un figlio. Poi guardo Gesù e gli dico: "E a te chiedo di amare tua madre come l'hai amata tu."